Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. I colori della pantera sono rosso e blu con un inserto bianco, l'animale appunto nella bandiera si vede e lo avevano forse incuriosito, non lo so. Mio figlio vuole farmi comprare alcune sciarpe delle varie contrade del Palio. Io gli chiesi: ma tu di che contrada sei? Della pantera, mi rispose. Storie di corse di cavalli e di cavalli eroi in una puntata che si intitola Cavallo Scosso. Cavallo scosso dove Tartuca passa il drago in questo momento. Terza curva di San Martino, il drago gira primo, poi cavallo scosso dalla Tartuca, poi la civetta, cade il drago, cavallo scosso del drago, cavallo scosso dalla Tartuca, civetta, drago, Tartuca, civetta, drago, terza curva del Casato, il drago passa primo. Curva del Casato, sta rimontando, passa il drago vince il Palio, il drago. Questo era Paolo Fraiese quando negli anni 90, questo è un Palio credo del 1993, un Palio della Sutta del 16 di agosto, e la Rai lo trasmetteva e Paolo Fraiese lo raccontava in questo modo. Io ricordo benissimo quando per la prima volta mi spiegarono che cos'era il cavallo scosso, cioè il cavallo che in realtà non è il cavallo che è scosso, è il fantino che in qualche modo è scosso e vola via. Il cavallo rimane da solo e vince quella gara, nella fattispecie vince il Palio di Siena. La puntata di oggi di Linea d'Ombra racconta quella cosa, racconta quella linea d'ombra, quella linea di confine nella vita di chi a un certo punto incontra quell'animale meraviglioso che è il cavallo. Quando una volta parlavo con un amico, che è anche un amico di questa trasmissione, che nella vita fa il dentista per cavalli, per esattezza, è un veterinario da grandi animali e si è specializzato in quello, ci ha mandato diverse storie di cavalli nella sua vita, e lui mi ha detto: quando un cavallo, o meglio quando il cavallo entra nella tua vita, quando tu o ne possiedi uno o ne cavalchi uno o lo conosci, come nel suo caso, perché lo fa di me, la tua vita diventa un'altra cosa. Oggi raccontiamo due storie che raccontano esattamente quella linea d'ombra lì, quel confine. La prima è quella di un giovane uomo, un giovanissimo uomo, un bimbo che per la prima volta si trova al Palio di Siena, si trova davanti al Palio, sceglie una contrada e porta molta fortuna a quella contrada. Credo che i contradaioli della Pantera all'ascolto vorranno sapere il nome di quel ragazzino che quel giorno scelse la contrada della Pantera. E la seconda storia invece è la storia di uno dei più grandi cavalli di sempre, soprattutto uno dei più grandi cavalli da guerra. Risale alla Prima Guerra Mondiale, la storia che vi racconteremo, ed è la storia di questo cavallo che ha guidato una delle ultime cariche di cavalleria della storia. Il cavallo si chiamava Warrior e la storia è altrettanto bella e altrettanto guerreggiante da un punto di vista animalesco, ovviamente, in questo caso. Insomma, abbiamo il solito gruppetto di storie, sono pronte per essere raccontate, quindi mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Era il 2006 e io avevo iniziato da un anno una lunga e difficile separazione da mia moglie. Mio figlio aveva circa 11 anni e ovviamente questa situazione era molto difficile per lui. Nei pochi momenti in cui potevo stare con lui, cercavo di trovare qualcosa in grado di stimolare il suo interesse e la sua curiosità. Il mio obiettivo era quello di creare un legame nuovo con lui, fatto di interessi comuni e cose da condividere insieme. Vivendo a Roma facevamo passeggiate visitando i monumenti e le bellezze che la nostra città ci offriva, e quelle poche ore trascorse con lui mi davano la forza per andare avanti pur tra molteplici difficoltà. Eravamo in prossimità dell'estate e riuscii ad accordarmi con mia moglie per poterlo tenere dall'1 al 3 di luglio. Non avrei poi potuto avere altri periodi estivi con lui, quindi decisi di organizzare una mini vacanza da qualche parte, solo noi due. Mi venne l'idea di portarlo a Siena per vedere il Palio. Pensai che sarebbe stata una bella esperienza da vivere insieme nella cornice di una città e un evento che non ha eguali nel mondo. Sebbene io non sia senese, il Palio mi ha sempre affascinato. E avevo vissuto questa esperienza già in passato altre volte. Non potrei mai viverlo come un contradaiolo, ovviamente, ma nel mio piccolo sono riuscito ad immedesimarmi e a comprendere in piccolissima parte cosa significhi per loro vivere quei giorni. Mio figlio non sapeva nulla di questa strana corsa. Fu così che provai a raccontargliela come se fosse una favola. Una storia fatta di cavalieri, nobildonne, cavalli, soldati e bandiere che vivevano tutti insieme in tante piccole città all'interno di una città più grande. E due volte l'anno si ritrovano nella grande piazza per cimentarsi in questa strana guerra, una guerra che non si combatte con le armi, ma fatta con dei cavalli che corrono veloce per arrivare primi e conquistare il più grande dei premi, un pezzo di stoffa dipinto con tanti colori che si chiama paglio. Sì, lui diciamo che di carattere è sempre stato abbastanza chiuso e un po' introverso, quindi non faceva trasparire molto le sue emozioni. Era abbastanza incuriosito, avevamo già fatto qualche piccolo weekend in Umbria, quindi sapeva della pazzia del papà di volerlo così portare a vedere cose strane, cose nuove, quindi con la sua faccia da poker ha detto vabbè andiamo, insomma. Ero riuscito anche ad inventare un gioco per fargli memorizzare i nomi delle 17 contrade, cosa che lui riuscì a fare in pochissimi minuti e con divertimento reciproco. Arrivammo alla sera di sabato 1 luglio. Avevo affittato una stanza a pochi chilometri fuori Siena, così da poter essere in città abbastanza presto la domenica, per poter visitare le contrade e immergerci in quella favola. Lui volle farmi comprare alcune sciarpe delle varie contrade, da poter poi regalare al nostro ritorno. E a un certo punto gli chiesi: «Ma scusa, tu di quale contrada sei?» «Della Pantera», mi rispose lui, senza un attimo di esitazione. Non saprei dire quale fosse il motivo di quella scelta, probabilmente per i colori blu e rosso o per l'animale così bello e affascinante. Da quel momento si mise al collo la sua bella sciarpa della Pantera e ci dirigemmo al campo, la meravigliosa piazza che avrebbe di lì a poco ospitato la gara. Trovammo un posto tranquillo dalla parte della curva del Casato. E durante le varie fasi della sfilata io lo vidi affascinato da questa strana atmosfera, dai colori, dai suoni che provenivano dal corteo storico, dai figuranti, dalla gente sempre più numerosa. Io gli spiegai che la mia di contrada, cioè il Nicchio, non avrebbe corso, perché sono solo 10 le contrade che partecipano ad ogni paglio, che però ci sarebbe stata la contrada rivale della Pantera, cioè l'Aquila. E l'Aquila era una contrada molto temibile perché aveva un cavallo velocissimo e un fantino esperto e sarebbe stato molto difficile riuscire a batterla. «Ma noi siamo molto più forti», mi rispose senza nessun dubbio. In cuor mio avevo paura di avergli creato un po' troppe aspettative e che magari una delusione sarebbe stata controproducente, ma ormai era inutile pensarci, così cercai di fargli apprezzare al massimo quei momenti. Dopo tante ore di attesa ecco che finalmente la carriera ha inizio. In circa un minuto e mezzo si concentra tutta una serie di emozioni fortissime e quel palio non fu da meno. La terribile nemica, Aquila, parte in testa sin da subito mentre la Pantera è in mezzo al gruppo. Dopo due giri l'Aquila è sempre abbondantemente prima, ma il fantino della Pantera prova l'impossibile e sollecitando al massimo il cavallo si avvicina sempre di più. Alla curva del Casato, dove siamo noi, l'Aquila passa prima, ma la Pantera è lì ed è sempre più vicina. Si sente il colpo che segna la fine della corsa e da dove siamo noi non si riesce a capire chi abbia vinto fra quelle due. Fino al momento in cui vediamo i contradaioli della Pantera avvicinarsi al palco e gridare «Daccelo, daccelo!». Avevano vinto. Il palio era loro e lo pretendevano a gran voce. Mio figlio, fra l'incredulo e il confuso, in mezzo a quella bolgia di gente impazzita, mi guarda con un'aria un po' sorgnona e mi dice: che t'avevo detto? La sera cenammo in una trattoria vicino al nostro B&B e lui, tornato ad essere timido e introverso, voleva togliere la sua sciarpa per un senso di vergogna. Una signora però lo vide e in un senese abbastanza stretto gli disse qualcosa tipo: sei contento che la tua contrada ha vinto? E allora la sciarpa non si toglie. Non ricordo nemmeno se quella notte se la sia tolta la sua sciarpa. La mattina seguente, prima di ripartire per Roma, facemmo un altro giro per la città e per la piazza che ormai era vuota. Ci imbattemmo per caso nel corteo dei contradaioli della Pantera, tutti muniti di ciuccio in bocca, dai bambini ai novantenni, per via di quella tradizione che vuole vedere rinascere la contrada dopo il Palio vinto. La prima volta che ci sono andato ho detto: questa è una gabbia di matti. È un qualcosa che forse neanche un senese riesce a descrivere. Per loro è la vita. Loro vivono per quel minuto e mezzo. Chi piano piano entra con curiosità e con educazione riesce un po' a capire la loro mentalità, che il Palio non è costruito per i turisti, per l'esterno, è per loro, e quindi lo vivono magicamente. Io avrei voluto fermare con uno scatto l'espressione stralunata stampata sul viso di mio figlio, così come la nostra incredulità nel vedere il cencio che era frutto di una vittoria così sofferta e sudata, incustodito e quasi gettato in terra all'ingresso di una chiesa dove il corteo era entrato per salutare e rendere omaggio alla contrada dove si trovavano in quel momento. Io non lo so che cosa sia rimasto di questa esperienza a mio figlio. Sarà una cosa che dovrò chiedergli appena possibile. Per quel che mi riguarda è uno dei momenti più belli e cari che ho, forse perché in tutti questi anni mi sono perso tanti altri momenti con lui. Tra l'altro, da quel lontano Palio del 2006 la contrada della Pantera non ha più vinto. Se mai volessero giocarsi la carta del contradaiolo acquisito portafortuna, siamo sempre disponibili a una chiamata per il 2021. Ed eccoci qua, si chiama Cavallo Scosso la puntata di oggi, avete capito perché, anche se in quel Palio un cavallo scosso non c'è stato, in qualche modo, visto che le storie raccontano di quel meraviglioso animale, oggi abbiamo deciso per questo titolo, ma Evaristo magari ne ha visti altri di pali e magari qualche cavallo scosso lui lo ha visto. Pronto, ciao Evaristo, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te. Come stai? Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benissimo, grazie. Senti, tu sei romano ma vivi in Svezia. Esatto. Quindi ti trovi in questo momento in un paese della Svezia che si chiama? Mi trovo in una città che si chiama Hässleholm, a sud della Svezia, nella regione dello Scone. E che ci fai lì? Giusto per farmi i fatti tuoi. Bella domanda. Lavoro, per amore, per tutta una serie di coincidenze che ci hanno portato a me e alla mia nuova moglie a trasferirci qui. Quindi da quanto stai in Svezia? Da 7 anni ormai. Ah, vabbè, ma quindi parli svedese? Parlo svezzese, il mio svedese non è così. Certo, perché perfetto. Lì c'è la solita storia per cui tutti parlano inglese e quindi un pochettino quel problema non esiste, no? Di parlare. Sì, diciamo, no. Che ecco, ci si appoggia all'inglese, quindi il mio svedese non migliora molto. Tra l'altro, scusami, mi faccio capire. Ne approfitto un altro minutino, poi andiamo alla storia, perché la Svezia è sempre stata una sorta di... Da marzo in avanti, da quando è arrivato il virus, la Svezia è stata vista prima come un esempio da seguire, poi da non seguire, poi di nuovo da seguire. Adesso a che punto siamo? So che la Svezia ha un numero di contagi che rimane abbastanza basso, nonostante le restrizioni non siano così alte, dico bene? Sì, è vero. Qui non c'è mai stato un lockdown forzato. Sostanzialmente il governo ha dato delle disposizioni che qui sono soliti seguire senza grossi problemi, quindi distanziamento sociale, non affollarsi in più di tanti nei locali, però i locali sono rimasti sempre aperti. Quindi c'è ovviamente divieto, scuole, posti di lavoro, insomma non si è mai chiuso nulla. No, assolutamente. Però adesso la gente ha la mascherina oppure no? Cioè se ti guardi in giro? No. Neanche nei luoghi chiusi? No, anzi, noi italiani la vivevamo male perché certo, andavamo in giro con la mascherina e ci guardavano come gli appestati, quindi perché era anche un po' difficile gestire questa situazione. Chiaro, quindi adesso tu come ti comporti? Da svedese o da italiano? Una via di mezzo, diciamo così. Senti, Evaristo, sono passati un po' di anni, quindi tuo figlio adesso ha, se non ho fatto male i calcoli, 25 anni. E ha quasi 25 anni, sì. E quindi quanto riuscite a vedervi? Ci siamo visti un paio di settimane fa dopo 15 mesi finalmente. Ah, wow. E come sì, l'hai trovato? Bene. Fortunatamente bene, perché lui si è trasferito a Milano già da un anno per lavoro e quindi avevamo progettato di vederci nei primi mesi dell'anno. Poi ovviamente le cose sono andate in modo diverso. Senti, che ricordo ha lui di quel giorno? Se ne avete parlato? Mi sembra di capire che è più un ricordo tuo che forse non suo. Sì, ne abbiamo parlato appunto quando ci siamo visti. Il suo ricordo è ovviamente molto lontano. Si ricorda alcuni flash, soprattutto la sera con questa signora che lo ha quasi minacciato di rimettersi al collo questa sciarpetta. Però non si ricorda neanche per quale motivo, diciamo, la pantera lo aveva così affascinato. Senti Evaristo, prima di salutarti, io lo chiedo in particolar modo ad alcune persone che ci mandano alcune storie. Se tu hai scelto questa storia per raccontarci tuo figlio, e poi davvero ti saluto, che cosa c'è di tuo figlio in questa storia, in questo episodio, in quei giorni vissuti a Siena? C'è molto, ovviamente, perché era la vacanza fatta per noi ci ricavavamo alcuni momenti in una situazione, ovviamente, in un contesto difficile. E quindi è un ricordo, sì, forse più mio che suo, però ho visto che anche lui qualche cosa se la ricorda, se la ricorda, e gli è rimasta dentro. Ti ringrazio Evaristo, saluta la Svezia e gli svedesi, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te Matteo, e grazie per la compagnia che ci fate. E di che, ciao, grazie. Ciao a te. Them for you, graceless lady. Ringrazio un ascoltatore che al 349-238-6666 manda un WhatsApp e dice: lo vedo scuotere la testa mentre lo scrive questo messaggio. Fazzoletto, si dice fazzoletto, nessun contradaiolo direbbe mai sciarpa. Grazie mille ai contradaioli di Siena, grazie a qualcuno anche della Pantera, che ripetiamo, nel caso voleste avere il giovane uomo, che adesso ormai ha 25 anni, non è più un bambino, che porta fortuna alla Pantera, ci contattate, vi diamo immediatamente il suo numero. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta, la nostra Deborah Rosciani, e poi torniamo a raccontare qui al... Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Linee d'ombra. In questa puntata, che si intitola Cavallo Scosso, la seconda storia che vi raccontiamo oggi è una storia incredibile, è una storia piena di pathos, di un cavallo che è diventato protagonista di enormi e straordinarie leggende tra i soldati che l'hanno visto cavalcare nel cuore delle battaglie della Prima Guerra Mondiale. Tra le varie storie che raccontiamo noi, al di là delle storie degli ascoltatori, che vi invito a continuare a mandarci, linee d'ombra @radio24.it, tutte storie che abbiano una linea di confine nel mezzo, che ha separato un prima da un dopo nella vostra vita, ecco, vi dicevo, oltre a quelle storie, tra le storie che raccontiamo ci sono alcune storie che magari sono storie di personaggi noti, però ne raccontiamo un pezzo che è sconosciuto, oppure storie più ampie che magari, appunto, grosso modo il grande pubblico conosce, ma quel dettaglio, quella particolare luce se la sono persa. E poi ci sono storie come questa, sono storie che sarebbero sconosciute se non fosse che magari qualcuno le va a recuperare perché è un esperto, che so io, di cavalli, o un esperto di vita militare. Ecco, noi siamo esattamente nel mezzo, perché non siamo né esperti di cavalli né tantomeno esperti di vita militare, ma abbiamo trovato questa storia meravigliosa, la storia di un cavallo che si chiamava Warrior, e del suo cavaliere, che era un generale canadese, si chiamava Jack Seeley, e si trova esattamente nel mezzo della Prima Guerra Mondiale, quando tutto si sta ancora decidendo, e a raccontare questa storia è il nipote di quel generale. State con noi. Warrior, il cavallo era pronto. Erano le 9:30 del mattino del 30 di marzo, sabato santo 1918. Era sopravvissuto in qualche modo a 4 anni di bombardamenti, pallottole e privazioni. Ma ora, nella piccola frazione di Castel, a non più di 10 miglia a sud-ovest di Amiens in Francia, il cavallo affrontava la missione più pericolosa di tutte. Avrebbe guidato, lui, una delle ultime grandi cariche di cavalleria della storia, nel bosco di Meurieux, sulle rive del fiume Havre. La vittoria non solo avrebbe messo in sicurezza la sponda del fiume, ma avrebbe contribuito ad arginare l'offensiva tedesca del 1918. Dietro di lui, dietro a Warrior, c'erano altri 1000 cavalli della cavalleria canadese. Nei 10 giorni successivi allo sfondamento tedesco contro la Quinta Armata, avevano percorso 120 km in senso antiorario, in direzione sud, per aggirare la punta di diamante dell'avanzata nemica. In sella a Warrior, come spesso era accaduta nei 10 anni da quando aveva allevato quel piccolo baio puro sangue, in sella Warrior, dicevo, c'era mio nonno, il generale Jack Seeley, 51 anni. La leggenda vuole che in seguito Jack abbia raccomandato Warrior per la Victoria Cross, una medaglia al valore militare, con la semplice, se non modesta citazione: il cavallo andava ovunque andassi io. Quando fischio, tu devi venire da me, capito? Mio padre aveva un cane che stava fermo quando lo chiamavi e ti correva sempre dietro quando non lo guardavi. E lui non è un cane. Ci sta solo pensando su. Mio nonno Jack e il suo cavallo Warrior erano arrivati in Francia dal Canada l'11 agosto 1914. Prima di allora mio nonno era stato deputato dell'isola di Wight, eletto durante il servizio nella guerra boera. Ma sebbene fosse diventato un membro anziano del gabinetto di Asquith, la sua carriera politica naufragò quando il 30 marzo del 1914 dovette dare le dimissioni da segretario di Stato per la gestione sbagliata di una battaglia. Dal febbraio del 1915 Jack Seeley aveva comandato l'assortito gruppo di Rangers, impiegati, espatriati, poliziotti a cavallo e nativi americani che costituivano i 3 reggimenti della cavalleria canadese nella Prima Guerra Mondiale. Jack era un generale popolare, ma non popolare come il suo cavallo. Se mai un animale è stato un simbolo di indomabilità per i soldati, è stato proprio questo cavallo, dalle gambe snelle, con gli occhi spalancati, una stella bianca sulla testa, con lo spirito indipendente, che era stato immortalato nel primo dei ritratti dipinti da Alfred Munnings, un artista di guerra della cavalleria canadese. Warrior era coraggioso ma non stupido, veloce ma non fragile, duro ma non massiccio. E Warrior era un sopravvissuto. Nel settembre del 14 il suo padrone, Jack Thompson, dovette fargli fare 10 km al galoppo attraverso il paese per sfuggire all'accerchiamento del nemico che avanzava. Nel 15 una granata esplose accanto al cavallo a pochissimi metri e pochi giorni dopo un altro distrusse la sua stalla, pochi secondi dopo che lui l'aveva lasciata. Nel 17 solo dei frenetici scavi lo avevano liberato dal fango e solo 3 giorni prima un colpo diretto sulla villa in rovina in cui era ospitato lo lasciò intrappolato sotto una trave in frantumi. Sì, era un cavallo sopravvissuto, ma sarebbe potuto sopravvivere alla battaglia del bosco di Morieux? Con il senno di poi è facile dire che a quel punto della guerra i tedeschi erano troppo tesi, gli americani stavano arrivando e la vittoria alleata era inevitabile. Ma non è così che sembrava allora. I tedeschi avevano distrutto la linea britannica, avanzando di 80 chilometri e facendo più di 100.000 prigionieri. La sconfitta sembrava fissare gli alleati in faccia, scriveva Winston Churchill. Mentre il cavallo Warrior si batteva per l'attacco al bosco di Morieux, Churchill, in qualità di inviato speciale del primo ministro inglese, veniva informato che gli uomini stanno strisciando lentamente lì indietro, gli dissero. Sono completamente esausti. A quel punto della storia, la cavalleria era diventata ormai superflua, per via della guerra di trincea. I tedeschi avevano sciolto la loro cavalleria alla fine del 1917. I cavalli erano bersagli troppo facili. Però un gruppo di cavalli poteva comunque agire come una sorta di brigata di paracadutisti. Al galoppo potevano spostare centinaia di uomini in avanti di 2 o 3 chilometri in un paio di minuti. Fu in questo clima che Seely prese la decisione di caricare. Il gruppo di segnalazione avrebbe condotto 12 uomini pronti a piantare una bandierina rossa con una C nera su una stella bianca per i canadesi. Quando partirono alla carica, ogni sensazione di paura era svanita grazie a lui, grazie a Warrior, che galoppava a grande velocità. C'era stata una grandinata di proiettili del nemico mentre attraversavano lo spazio e salivano la collina, ma a Warrior non importava nulla. Su 12 uomini, in cima alla collina ne arrivarono 6. Gli altri caddero sotto i colpi nemici. Ma il vessillo fu piantato. Squadrone dopo squadrone il nemico arrivò, tuonando, su per la collina, facendo terribili perdite. La storia ufficiale tedesca racconta che una sola bomba abbia messo fuori combattimento un intero battaglione. La battaglia del bosco di Morieux è un inferno, dissero. E lo era soprattutto per i cavalli. Ma anche per la squadra di Seely la battaglia fu tragica. Signore, singhiozzò il suo sergente, quando finalmente tornò strisciando con la notizia. Signore, disse, i ragazzi se ne sono andati, siamo soli. È emozionante stare qui, perché è il luogo esatto in cui si svolse l'attacco del 6 giugno del 18. È così. Infatti i nostri coraggiosi americani, il terzo battaglione del quinto Marine, attraversò questo campo che all'epoca era un campo di grano. E te lo puoi immaginare, erano completamente allo scoperto. Hanno attraversato questo campo sapendo che al margine del bosco, proprio qui, c'erano le mitragliatrici tedesche, che non aspettavano altro che sparare e ucciderli tutti e, tenendo ben presente che le truppe americane arrivavano a ondate successive, puoi immaginare i primi soldati che lo attraversarono. Caddero sotto il fuoco nemico e quelli che arrivavano in un secondo tempo trovavano i corpi dei compagni morti. Warrior e il suo cavaliere erano ora nel bosco e quello che vedevano era una guerra al massimo della sua orribile esplosione. Ma quel manipolo resistette fino allo stremo delle forze, grazie a Warrior che, instancabile, percorreva la collina come una freccia. E incredibilmente, la battaglia contro i tedeschi fu vinta. La mattina dopo tennero una triste funzione pasquale. Sebbene il bosco di Morieux fosse stata presa e l'avanzata tedesca fosse stata controllata, un quarto degli uomini e metà dei cavalli erano andati perduti. Quel pomeriggio arrivò un'altra convocazione. Sealy e il suo cavallo Warrior dovevano presentarsi a 6 miglia a nord di Gentel alle 2 del mattino per pianificare un altro attacco. Lungo la strada Warrior si lamentava, al buio, era ormai fuori combattimento. Il giorno dopo Sealy fu ferito e entrambi i suoi cavalli di ricambio furono uccisi. Quella fu l'ultima grande fuga di Warrior. Il cavallo visse fino al 1941, quando Sealy sentì che le razioni extra di mais necessarie per mantenere in vita l'eroe di 33 anni non potevano essere giustificate in tempo di guerra. Dopo quell'infortunio, nel 1918, Warrior si era ripreso abbastanza per partecipare alla parata della vittoria ad Hyde Park, a Londra, e 3 anni dopo aveva vinto la gara all'isola di Wight, ed era il 30 di marzo, ancora una volta. La storia di Warrior, il possente Warrior, il cavallo che ha guidato una delle ultime cariche di cavalleria della storia, l'abbiamo letta sul Telegraph e se volete riascoltarla la trovate sul nostro podcast. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui l'ultima parte, una parte della nostra storia seriale su Antonio Cocco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Linee d'ombra. La nostra storia seriale è quella di Antonio Cocco, la storia che racconta di un uomo, un giovane uomo che finisce nella legione straniera a suo malgrado, di fatto, quasi forzatamente costretto ad arruolarsi. Ebbene, in questo episodio Antonio racconta nelle sue lettere a casa che cosa significhi avere un debito nella legione straniera. Non significa semplicemente dovere dei soldi a qualcuno, ma rischiare la galera. Saida, 1 agosto 1952. Caro papà, questa è la quarta o quinta lettera che ti scrivo. Non riesco a capire il motivo perché le altre non le hai ricevute. Ho scritto molto a Ciccio, Checco, Marisa, Anna e una a parte per mamma. Spero che non si siano fermate qui a Saida e che le abbiate ricevute. Ho scritto per la seconda volta a Don Legrand. Mi dispiace di non fare altrettanto con il signor Rupolo. Era la grande amica di mia madre. Anche suo marito era un po' un amico di papà. Quel poco che mi ricordo è questo, che il signor Rupolo, che era proprio, sempre stato un antifascista, a volte mi ci raccontava degli aneddoti che ha vissuto durante il fascismo quando poi non voleva sperne. E la sua moglie, la signora Rupolo, veniva spessissimo con mia madre là, e nel pomeriggio sferruzzavano assieme, chiacchieravano assieme, eccetera, era di casa, insomma. Non vorrei confondermi con altre persone, ma mi sembra di sì che sia così. Lavanda Rupolo era grande amica dell'Idagna. Ma era figlia di signor Rupolo allora, Lavanda. Digli che lo ringrazio, ma che non posso rispondergli perché sono senza soldi. Mi è capitata una disgrazia che forse per voi vi sembrerà niente, ma per me è di grande importanza. Ho rotto una cosa ad un camerata tedesco e lui pretende 1.000 lire, altrimenti mi denuncia e sarò bravo se me la caverò con 8 giorni di prigione. Se ti potessi fare un'idea di che cosa sia la prigione, forse comprenderesti perché ti chiedo detto denaro. Proviamo anche noi a farci un'idea di cosa fosse la prigione attraverso la testimonianza di un altro legionario. La legione è più somigliante ad un'organizzazione mistico-religiosa rispetto ad un qualsiasi altro corpo militare. Le punizioni fisiche, il duro lavoro, la privazione di sonno e di cibo, uniti al costante incitamento a dimenticare il proprio passato, concorrono ad un vero e proprio lavaggio del cervello. E il peggio di tutto è il carcere. Una delle attività preferite degli addestratori con chi sta in carcere è quella di allinearci sul piazzale la mattina presto, a volte in mutande, a volte nudi, e lasciarci congelare per 40 minuti. I pestaggi correttivi sono continui. I caporali a volte ci costringono a tuffarci in uno stagno ghiacciato chiamato il laghetto. E se qualcuno si rifiuta di entrare, in cambio obbligano il resto del gruppo a rimanere a mollo nell'acqua gelida. Caro papà, nel chiuso delle celle io ci sono stato e mi hanno usato letteralmente come sacco da box per i caporali per una settimana intera. È stato duro, molto duro per me convincermi che non avevo via d'uscita e quindi ho accettato di chiederti i soldi. Non mi biasimare, papà, ma ho un terrore pazzo della prigione perché lì ho provato pedate al basso ventre e pugni e so cosa sia tutto questo. I soldi me li puoi far avere tramite vaglia o qualche altra via, perché qui te li danno a meno che non siano troppi. Qui dentro ti metto le negative delle foto fatte qui e che ti ho già spedite a Venezia. Non sono molto allegre, ma appena uscirò in città me ne farò delle altre. È inutile che ti dica come stanno qui le cose, ormai lo saprai di già. E poi voglio scrivar una lettera pulia par veder se te la arriva. Capisci cosa intendo? Fra un'oretta partiremo per fare la marcia di 2 giorni con zaino e aggeggi. Non so quanti chilometri faremo, certo molti, se si pensa sotto a quel sole e come carichi la facciamo. Come va il tuo lavoro a Venezia? Spero sia coronato dal successo. Te lo meriti, povero papà. T'abbraccio e ti bacio. Tony. And forth, but it's too late. And there's no cure, no sedating. All this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet and sell the boots naked. In town, and I can't get around to being not surprised by memory speeding on the road. I wish we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly. Only the sun now, Father God, as we were born. Se volete scoprire i titoli e la playlist di ogni puntata scelta da Luca Micheli, potete andare sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Linea d'Ombra, oppure sul nostro profilo Facebook Linea d'Ombra Radio 24. Anita Panizza vi fornisce un piccolo riassunto della giornata e anche i brani musicali. Io chiedo scusa a tutti i veneziani all'ascolto per la pronuncia del mio veneziano tratta dalla lettera di Antonio Cocco, tant'è sono di Novara, altrimenti l'avrei pronunciato magari un pochettino meglio. Comunque anche il novarese mi viene male, giusto per dire. Però chiedo scusa di nuovo, ma ringrazio invece Mauro Pescio e la famiglia Cocco che ci sta aiutando a raccontare la storia di Antonio. Ma ringrazio soprattutto le persone che hanno deciso di mandarci un vocale al 331 57 55 721 per raccontarci la linea d'ombra che stanno vivendo in questo momento. È il caso di Alessandro, che l'ha vissuta pochissimi giorni fa e ce la racconta con tutta la temperatura emotiva del caso. Diciamo che la mia linea d'ombra è la morte di mio padre. Purtroppo mio padre è venuto a mancare 2 giorni fa a seguito di una lunga malattia oncologica, che l'ha portato all'estremo. Quello che ero prima era un figlio, ero un ragazzo perché ho 26 anni, quindi non sono più giovanissimo, ma sono ancora nel fiore della mia gioventù. E adesso mi trovo comunque a avere molte più responsabilità, diventare l'uomo di casa, quindi cambiare totalmente, accelerare da un giorno all'altro il processo di maturazione, pensare all'affitto, pensare a tante cose che mia madre da sola non potrebbe mai. Questo sarà un grande cambiamento, sicuro il più grande che abbia mai vissuto. Di cambiamenti io ne ho vissuti tanti, essendo stato un ragazzo molto particolare, molto scalmanato, ho fatto molti, molti errori anche a livello penale. Mi sono rimesso a posto, ho cominciato a lavorare e niente, ho vissuto di cotte e di crude, ma la sofferenza della perdita di un padre, soprattutto a questa tenera età, ti porta a una sofferenza immane e anche a maturare tutto d'un tratto. E ad Alessandro vanno tutti i nostri in bocca al lupo, e io invito chi ha voglia, magari in questo momento, chi ha sotto mano un telefono, di digitare il 331 57 55 721, che è il nuovo modo che abbiamo inserito in questa stagione per raccontare la linea d'ombra, la linea di confine in cui vi trovate in questo momento preciso, al di là delle storie che ci mandate che riguardano il vostro passato, per lo più. Se volete raccontarci quel presente che è caratterizzato da una linea in mezzo, non sapete se stare di qua o di là, un bel racconto, un bel audio al 331 57 55 721. Lasciamo la linea al GR e torniamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it.